Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, partiamo anche noi da un dato. Il dato è quello: per il secondo trimestre del 2013 il tasso della propensione al risparmio delle famiglie dei 17 paesi dell'area euro è sceso al 12,8% rispetto al 13,1% del trimestre precedente. Questo Eurostat, nell'UE a 27 si è passati sullo stesso, appunto sulla stessa misura, dall'11,1% al 10,7%. E ora la Commissione europea, che oggi ha sbloccato altri 85 milioni di euro in aiuti umanitari per la Siria, serviranno in particolare a sostenere i rifugiati siriani in Giordania, a favorire la mobilità degli studenti universitari in Europa, a finanziare programmi sanitari ed educativi. In arrivo anche aiuti per fronteggiare il sospetto focolaio di polio. In totale sono 1,9 miliardi di euro le donazioni dell'UE dall'inizio della crisi siriana. Ma non c'è solo la Siria tra le priorità della Commissione. Dai terremoti alle inondazioni, dalle epidemie alle guerre, un mondo sempre più fragile, quello in cui viviamo. 384 catastrofi naturali o causate dall'uomo negli ultimi 10 anni, e oggi è sicuramente la Siria, con i suoi 2 milioni di rifugiati, la più grande emergenza umanitaria verso la quale sono diretti la maggior parte degli aiuti della UE. Così Kristalina Georgieva, commissario europeo per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi. It was confirmed that the number of refugees who have fled from the war in Syria into neighboring countries. Ma la UE è presente in tutte le zone calde del mondo. Un'assistenza talvolta prestata lontano dalle telecamere, nelle cosiddette zone di crisi dimenticate, per le quali la Commissione è spesso l'unico principale donatore. In generale la UE è il primo donatore di aiuti umanitari al mondo e contribuisce a più della metà degli aiuti ufficiali. Nel 2012 la UE ha speso 1,34 miliardi di euro in aiuti umanitari destinati a 122 milioni di persone in 90 paesi, e tutto ciò nonostante la crisi economica. Anzi, dal 2010, dice la Georgieva, i flussi di finanziamento sul fronte emergenze sono aumentati. Two reasons. First, the crisis actually brings the best out of people. And second, we Europeans, even in the deepest of crisis, are so much more fortunate than millions of people in other places. Insomma, la crisi fa venire fuori la parte migliore delle persone, e ciò unito alla consapevolezza che noi europei, anche in tempi di crisi, siamo comunque più fortunati di milioni di persone che vivono in altri luoghi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'Europa, insomma, spende moltissimo, è il primo pagatore netto della cooperazione internazionale, ma spesso è praticamente invisibile. E dal disastro, dalla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre scorso, avete sentito, abbiamo parlato spesso delle iniziative dell'Europa in questo ambito, come interrompere questa tragedia, come intervenire sul diritto d'asilo. Il presidente Letta se ne è fatto portavoce, i leader si sono incontrati, i leader dei 28 dell'Unione si sono incontrati la settimana scorsa, hanno convenuto di rafforzare le operazioni di ricerca, poi però si sono fermati di fronte alla questione della riforma della politica sull'asilo. Ne parleranno a dicembre, ma è, diciamo, scontato che non ci sarà una posizione comune, almeno non prima delle elezioni del Parlamento europeo di maggio. Insomma, un tema troppo delicato, quello del cambiamento del diritto d'asilo, per essere affrontato, e che dunque viene rimandato. Ma dopo giugno ci sarà davvero qualche novità? Euronet Plus lo ha chiesto a Iva Pasqua, analista senior allo European Policy Center. Temo che non saremo in grado di avere questi orientamenti entro il giugno del 2014. Due ragioni principali: da una parte, i Paesi membri non amano rinunciare a parti di sovranità; la seconda è che i fenomeni migratori sono legati alla situazione economica. Siamo e saremo ancora, temo, nel giugno del 2014 in una fase di contrazione economica, e quindi non credo che ci saranno le condizioni complessivamente diverse che potranno così orientare l'opinione pubblica verso una maggiore apertura. C'è poi una questione, spiega Pasqua, una questione un po' paradossale, che il tema forse più delicato perché si trova in mare, è quello del soccorso e del diritto al disimbarco. Dove e come si sbarcano i profughi raccolti in mare? Questo è l'oggetto di una trattativa attualmente in corso a livello di Unione Europea. Bene, dice lo specialista, non solo il vertice non ha raggiunto una posizione comune, ma ha registrato il fatto che proprio i paesi che chiedono a gran voci di trovare una linea comune, cioè Italia, Francia e Malta, sono anche quelli che stanno bloccando l'adozione di una regolamentazione comune. E infine, l'avete sentito anche in GR24, Putin nega attività di spionaggio, anche se ormai le voci si moltiplicano in questo senso. Intanto la Commissione UE ha dichiarato di essere al corrente della vicenda, ma di non poter ancora confermare il fatto che suoi alti rappresentanti siano oggetti appunto di spionaggio. Si attendono verifiche e nuove comunicazioni. Con questo noi abbiamo concluso l'appuntamento di Europa 24. Domani intorno alle 14. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.